Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora incominceremo con uno che aveva un'ulcera, ma non diciamo chi è. Non diciamo, lasciamo mistero. Aveva l'ulcera. Poi invece ritorniamo su una storia che abbiamo raccontato quasi 4 anni fa. Raccontava di 2 cani, adesso sono diventati 3. È una storia un po' triste, un po' commovente, ma con un lieto fine. E infine, da un convegno sulle neuroscienze internazionale tenutosi a Roma qualche settimana fa, affronteremo il tema dell'Alzheimer dal punto di vista della ricerca farmacologica, con una serie di problemi non facili da risolvere. Cominciamo? Via! Ecco, adesso viene fuori che aveva anche l'ulcera. Allora, torna a far parlare di sé Ötzi, che è la mummia del Similaun, che risale all'età del rame, ne abbiamo parlato spesso qui in trasmissione, che è stata scoperta nel 1991 in un ghiacciaio sulle Alpi orientali. Sono già passati 24 anni. Sì. E oggi è possibile visitarla a Bolzano, al museo a lui dedicato. L'Iceman viene anche chiamato, però è continuo oggetto di ricerche da parte ovviamente dell'Eura, che è l'ente che si occupa di studiare questo uomo venuto dai ghiacci, e torna a trovarci ancora una volta il professor Albert Zink. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Benvenuto, ben ritrovato. La presentiamo, lei è paleopatologo, quindi sta studiando tutte le malattie che aveva Ötzi, perché ne aveva molte. Questa volta gli avete beccato anche l'Helicobacter pylori. Esatto, questa è la nostra nuova scoperta. Abbiamo analizzato lo stomaco di Ötzi, il contenuto dello stomaco, e poi abbiamo scoperto questo batterio che anche oggi è molto comune nelle persone moderne. Eh sì. Questo ci sorprende. Lui lo aveva per qualcosa che aveva mangiato, come se l'era procurato? No, questo batterio si prende già forse come bambino, non si sa, capisce bene come trasmetto, ma forse già come bambino si prende dei genitori. E poi questo batterio è quasi sempre presente tutta la vita, e solo in 10% causa anche i problemi della salute. Allora non tutti vengono malati con questo batterio, ma se qualcuno ha questo batterio potrebbe anche avere una gastrite o un'ulcera, allora può causare problemi anche gravi. Sì. Cioè noi ce l'abbiamo, poi può causare problemi o meno. Nel caso di Ötzi, poverino, aveva mal di stomaco? C'era proprio un'ulcera? Forse sì, pensiamo di sì, perché abbiamo visto, purtroppo non si vede più la struttura dello stomaco, allora non possiamo dire che lui veramente ha avuto un'ulcera o la gastrite, ma abbiamo scoperto che ci sono proteine che sono tipiche per una reazione su una infezione con l'Helicobacter, allora è molto probabile che lui almeno ha avuto un po' di problema con lo stomaco. Cioè, voi non è che avete trovato l'Helicobacter pylori, diciamo, avete trovato tutte le tracce della presenza dell'Helicobacter. Sì, esatto, perché il batterio non è più presente, non si vede più nello dopo stomaco, ma abbiamo fatto un'analisi genetica e poi siamo riusciti a ricostruire il genoma di questo batterio. Allora possiamo dire che il batterio c'era presente. E probabilmente anche causato un po' di problemi. Ecco, voi siete riusciti ad affermare questo appunto non perché avete studiato lo stomaco, che ovviamente non c'è più, ma avete studiato il contenuto dello stomaco. Dal contenuto siete riusciti a trovare tante altre informazioni sull'alimentazione di Ötzi? Sì, questo è un altro progetto dove lavoriamo ancora, ma possiamo già dire che lui ha mangiato un bel po' di carne, anche un po' di grani, un po' di cose delle piante. Questo dobbiamo ancora analizzare più profondo, ma possiamo anche dire poi che cosa ha mangiato, come è stato lui l'ultimo pasto. Ma quando per esempio lei dice abbiamo capito che mangiava carne, riuscite anche a capire, e questo sarebbe credo quanto mai suggestivo, che tipo di carne mangiava, cioè di quale animale? Questo facciamo anche lì un'analisi genetica, perché non si vede così che carne c'era, ma possiamo dire che lui ha mangiato stambecco, allora un animale tipico per le Alpi che lui ha forse portato con lui in un modo seccato, pensiamo, perché non abbiamo tracce che lui ha fatto, diciamo, un barbecue o cotto la carne lì nelle montagne. Se l'era conservato, una specie di mocetta aveva fatto. Ma senta, sì. Zink, la cosa fondamentale, una scoperta fondamentale del vostro studio è stato quello di capire che questo Helicobacter non è lo stesso che abbiamo noi adesso nello stomaco, noi europei. Cioè, qui la particolarità è che voi avete trovato un Helicobacter diverso. Sì, esatto, questa è stata una grande sorpresa per noi, perché noi abbiamo aspettato a trovare un ceppo di Helicobacter che oggi è anche presente in Europa, perché sappiamo che la storia di questo batterio è molto stretto collegato anche con la storia dei nostri umani, di noi, diciamo. Certo. Altri studi che sono stati fatti prima hanno pensato che questo Helicobacter moderno di Europa è stato già presente forse 10 anni mille fa. Ma invece Ezio ha portato uno asiatico, uno che si trova oggi in India e non in Europa. E come lo spieghiamo, professor Zink? Che ci faceva con quel batterio asiatico? E questo dice che questo insediamento umano in Europa è forse più complesso che come abbiamo pensato prima, perché questo ceppo europeo è una mescolanza tra un asiatico e un africano. E adesso possiamo dire almeno che questa mescolanza è stata successa forse solo dopo l'epoca di Ötzi. Questo dà nuove informazioni sugli insediamenti umani in Europa. Cioè, quello che potrebbe essere accaduto è che questa variante dell'Helicobacter era qui, però poi questi si sono spostati verso l'India e quindi è stato portato là da qui. No, forse c'era presente nell'età di Ezio, questo era molto frequente, questo tipo di Helicobacter in Asia ma anche in Europa. Ah, okay. E poi in Europa dopo il periodo di Ezio è stato cambiato, poi è arrivato questo, diciamo, europeo che si trova anche oggi. Beh, okay. Grazie al contenuto stomacale di Ezio riusciamo a ricostruire un pochino quella che è stata l'evoluzione dall'Homo sapiens a noi, insomma, Zink. Una scoperta importante. Ma sì, molto importante, perché dobbiamo capire meglio l'evoluzione anche di questo batterio, che è molto stretto collegato con la nostra evoluzione. Quello che sta avvenendo oggi è che dalla genetica e da questo di ricerche, diciamo, di paleogenetica si hanno dei riflessi sulla storia, insomma c'è una confluenza che una volta era assolutamente impensabile. E il lavoro non è finito, Zink, siete anzi ancora più stimolati ad andare avanti in questa ricerca infinita quasi di informazioni che arrivano da Ötzi. Sì, certo, su un lato volevamo capire altre cose su Ötzi, anche più in dettaglio il contenuto dello stomaco, cosa ha mangiato, ma anche questa storia dell'Helicobacter vogliamo approfondire, perché Ötzi è solo un caso, allora volevamo trovare altri casi che sono così bene conservati come Ötzi per capire anche meglio tutta l'evoluzione di questo batterio, anche la nostra storia. Oh, va bene, buon lavoro Zink, allora ci risentiamo presto. Buon lavoro. Grazie, sì. Adesso vediamo cosa ci raccontano sulle strade italiane il traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Una storia bella, una storia brutta, ma comunque ve la raccontiamo nella puntata del 10 novembre del 2012. Roberto Bussadori, veterinario della Clinica Gran Sasso di Milano, ci raccontò la storia di Teo. Teo era un pastore maremmano affetto da paralisi laringea. Dunque, il proprietario è venuto presso il nostro centro perché il cane aveva avuto degli episodi di dispnea ostruttiva nei quali il proprietario proprio ha detto sembrava che stesse soffocando. Abbiamo effettuato una terapia medica, è passata circa una settimana. Ho sentito proprio oggi il proprietario che mi ha detto che purtroppo la sintomatologia persiste. Credo quindi che dovremo effettuare l'intervento chirurgico. Le cure non fecero effetto e Bussadori fu costretto a operare il cane, ma tutto andò bene e Teo si salvò. Bussadori ci ha fatto sapere che Teo è deceduto un anno fa di vecchiaia, ma la storia non è finita. Francesco Losco stava ascoltando la trasmissione del sabato di quel 2012, proprio mentre il suo cane Sky stava avendo una crisi respiratoria molto simile a quella che stava descrivendo Bussadori in onda. Mentre Sky aveva questa crisi, il dottor Bussadori parlava per telefono di questo intervento che era possibile fare per risolvere il problema della paralisi di laringea. Quindi, cioè, anche se i momenti erano molto drammatici, perché io cercavo di supportare il cane per quello che era possibile, per aiutarlo a respirare, cercavo di non distrarmi dalla trasmissione per sentire innanzitutto i riferimenti del medico. E quando il dottor Bussadori le ha detto che era andato tutto bene, è uscito dalla sala operatoria, lei cosa ha detto? Ho detto a Radio 24 che praticamente ha salvato la vita del cane, perché se non avessi ascoltato quella trasmissione probabilmente non sarei mai riuscito ad arrivare al dottore. Sky era un golden retriever della Protezione Civile della Sardegna, uno di quei cani addestrati a cercare persone disperse e sotto le macerie. Sky venne salvato dall'operazione del dottor Bussadori, che si recò in Sardegna ed operò Sky. Sky morì 2 anni dopo, ma in questo tempo Sky ha affiancato, addestrato un'allieva, Tush, una golden retriever che oggi, come fece Sky, aiuta la Protezione Civile nel recupero dei dispersi nel territorio sardo. Siamo rimasti in contatto con il nostro ascoltatore Francesco e ci ha inviato un video delle esercitazioni di Tush, che noi abbiamo pubblicato sul nostro blog e abbiamo montato un bel video in ricordo di questa storia che Radio 24 e che Mebius ci ha regalato, e insomma lo trovate su Radio 24. E ringraziamo anche il nostro redattore Gianluca Liva che ci ha aiutato a realizzare questo bel video. Ogni tanto lo ricordiamo agli ascoltatori di rimanere in contatto con noi attraverso il blog, dove pubblichiamo sempre un po' di extra trasmissione, ma anche attraverso i social. E in questo momento stiamo diramando un sondaggio, ecco. Di cui ci hanno chiesto l'aiuto alcuni studenti che si occupano di comunicazione scientifica in Italia, ed è un sondaggio sulla conoscenza dello spazio da parte degli italiani. Proprio dell'astronautica italiana. Non sono domande italiana. Così difficili, vi ruberà circa un minuto. Sì, non di più. E lo trovate allora sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina Twitter, che trovate facilmente mettendo Mebius o Mebius Online o Mebius Radio 24, ci trovate subito. Altre brevi notizie che vogliamo darvi. Allora, c'è una voce che sta girando per il mondo scientifico internazionale. Pare che ci sia un esperimento negli Stati Uniti che è riuscito a individuare le onde gravitazionali, delle quali abbiamo parlato altre volte qua in onda, ma nello stile che ha sempre avuto Mebius, di non darvi la notizia appena a arriva, caldo, esatto, ma un pochino perché, più approfondita, esatto, per capire che cosa c'è realmente sotto. Credo che riusciremo a parlarne fra forse già la prossima puntata, però insomma questa notizia indubbiamente strepitosa ha bisogno di essere approfondita. Dopodiché invece avrete visto, ci sono un po' di grane di cronache scientifiche, esatto. Anche cronache nere scientifiche, un po' nere. C'è tutta questa vicenda della Xylella, il terribile animalaccio di cui abbiamo parlato qualche mese fa, con uno dei ricercatori che appunto è stato coinvolto in questo inchiesta alla scienza, anche di cui verrebbe fuori che l'università e i centri di ricerca hanno sono responsabili. Quindi dobbiamo cercare di capire com'è questa storia. E poi un'altra vicenda ancora più complessa, perché Elena Cattaneo, senatrice a vita sì, però anche grande ricercatrice italiana che si sta interessando di tante cose che riguardano la comunicazione scientifica, ha praticamente fatto una petizione perché sembra che ci sia un ricercatore che ha falsificato in una propria ricerca sugli OGM i dati, alcuni risultati, venendo fuori da questi dati alterati che appunto gli OGM sono quanto mai pericolosi, ma sembra che lui abbia forzato pesantemente questa cosa. Allora dovremo anche parlarvi di questo aspetto, ma non lo facciamo però subito. Però siccome vogliamo farlo in maniera un po' approfondita, cerchiamo di analizzare il caso. Convegno a Roma sulle neuroscienze organizzato dallo studio Ambrosetti un paio di settimane fa, molti temi, ne parleremo anche nelle prossime puntate. La prima che vi proponiamo come tematica questa sera è un'intervista con Luca Piana, che è il direttore dell'Agenzia Nazionale del Farmaco, l'AIFA, con un tema al centro che è appunto, come vi dicevamo nei titoli, il paradosso della ricerca farmacologica sull'Alzheimer. E infatti abbiamo incominciato da qui e io gli ho fatto la seguente domanda. Lei ci ha presentato a un certo momento una slide che è estremamente interessante, altrettanto estremamente inquietante e allo stesso tempo dotata di una carica di veridicità assoluta. La pubblichiamo sul nostro blog e così la si può vedere, magari uno anche pure se la incornicia, però vediamola brevemente a voce. La media del successo degli investimenti nelle varie aree terapeutiche dell'industria farmaceutica è intorno al 4%. La media del successo per lo sviluppo di medicine correlate all'Alzheimer e non solo, le demenze in genere, è di 0,5%, cioè sta 8 volte di meno. Il totale di questo si converte negli ultimi 10 anni, almeno 10-15 anni, in 230 sperimentazioni cliniche fallite e in quasi 40 miliardi di dollari buttati all'aria. Noi siamo preoccupati perché evidentemente ci troviamo in un momento in cui i grandi investitori che poi investono nello sviluppo di farmaci, che non sono necessariamente solo case farmaceutiche, perché molti credono che le case farmaceutiche investano di loro, mentre hanno degli investitori come dei fondi sovrani eccetera che investono, potrebbero iniziare a pensare che sviluppare farmaci per l'Alzheimer non è remunerativo. Quindi questo per noi è un elemento di preoccupazione che ci spinge a parlare con gli accademici, a parlare con gli innovatori per sapere se possiamo tutti insieme trovare una soluzione a quello che al momento sembra una strada senza ritorno. Forse sarà meglio cancellare un'impressione facile che può arrivare dal fatto che il pubblico potrebbe dire: ma come, l'Alzheimer ci dite che è qualcosa di estremamente crescente, diffuso, dovrebbe essere conveniente trovare il farmaco? Ma nella sua slide si fa vedere proprio che nella fase iniziale, no, quella preclinica, c'è un investimento impressionante da fare, quindi il problema è di questo genere. Se fosse più facile, è come che ci sarebbe interesse? Cioè, è certo, l'imbuto generalmente tra le fasi precliniche e le fasi cliniche è più largo nell'Alzheimer. Si dice che soltanto una molecola su 10.000 di quelle che vengono sintetizzate arrivi sul mercato senza nessuna peraltro garanzia di rimanerci. Nell'Alzheimer questo numero è molto più grande, è un numero che arriva quasi a 80.000 molecole, a 100.000 molecole. Vero è che la fase preclinica, cioè le iniziali schermaglie della sperimentazione, costano relativamente poco. Quello che costa veramente tanto è la sperimentazione clinica multicentrica, internazionale, randomizzata e così via. E lì ne arrivano, metti una decina, una ventina, ma falliscono. Questo è il problema, falliscono anche quelle, falliscono dopo aver investito e perso 500, 600, 700 milioni a molecola in quella fase. Cioè si capisce che esiste il problema. Guardi, l'Alzheimer, in genere le demenze, saranno il vero problema del mondo occidentale, non solo del mondo, nel giro dei prossimi 10 anni. Noi avremo 150 milioni, 135 milioni di persone affette da Alzheimer nei prossimi 10 anni. Siccome ci vogliono circa 10 anni, 8 anni per portare una molecola da oggi sino alla farmacia, siamo preoccupati per questo, cioè che i livelli di attrito, come lo chiamiamo noi, sono molto alti. Senta, com'è che lei si è trovato, ovviamente anche come agenzia del farmaco, a parlare con Apple? Noi siamo stati invitati perché la successione di eventi è stata che l'agenzia italiana è una dei leader a livello europeo delle strategie sul sistema nervoso centrale. Su questo siamo stati quindi contattati dal UK Dementia Council, cioè dal consiglio che si occupa di investimenti per la demenza in Inghilterra, e dalla Melinda e Bill Gates Foundation, che si occupa anche lei di strategie per l'Alzheimer. Quindi siamo stati contattati come regulators lì. All'interno di questi meeting c'era il responsabile, che è il professor Simon Lovestone di Oxford, del progetto UK Dementia, che è inglese. E avendo visto le nostre considerazioni e le nostre competenze, quando c'è stato un incontro all'APO il 24 agosto di quest'anno, il 2015, siamo stati nominati come i regulator, come gli unici regolatori che potevano aiutarli nello sviluppare eventualmente delle app che poi devono aiutare a fare la diagnosi prima per intervenire, perché l'idea adesso è questa: se proprio abbiamo fallito così tante sperimentazioni cliniche è forse perché siamo arrivati troppo tardi, e allora l'idea è fai la diagnosi prima. Fare la diagnosi prima, quando i sintomi ancora non ci sono, è difficile. E allora le app, ecco perché c'era la Apple e anche Google si sta muovendo in questo senso, potrebbero servire a fare in modo che nella vita di tutti i giorni uno si accorga prima se sta iniziando a sviluppare un po' di deficit cognitivo e poi vada dal medico e faccia la diagnosi prima. Perché la differenza potrebbe essere notevole, cioè se lo si prende effettivamente quando abbiamo i primi segni può essere una grossa differenza. Qualcosa c'è oggi che può agire? Allora, questo è un altro argomento di enorme interesse. Non è sempre vero che sia così. C'è una strategia che è esattamente questa, che dice la diagnosi è giusta ma dobbiamo prenderla prima, se la prendiamo prima siamo in grado di modificare il decorso della malattia. C'è anche una grande polemica però sul fatto che questo tipo di atteggiamento, metta per esempio nel cancro della mammella, abbia generato un sacco di diagnosi inutili e un sacco di terapie inutili prima che veramente la neoplasia si sviluppasse, che il tumore si sviluppasse. E quindi le rispondo sì, ma sino a un certo punto. Bisogna stare attenti all'altra faccia della medaglia, cioè di iniziare a fare diagnosi e terapie, costose anche peraltro, quando la traiettoria non sta necessariamente andando verso una demenza o verso una predemenza, ma è soltanto un momento difficile nella vita che poi uno recupera, ecco, e non sviluppa nessuna demenza. Quindi noi ci stiamo dibattendo come regolatori tra questi due aspetti che hanno un quoziente di incertezza abbastanza elevato. Che non potrebbe essere, come dire, chiarito da un'app più o meno intelligente? No, l'app più o meno intelligente, anche intelligentissima, serve a fare quello che si chiama early spotting, cioè a fare lo sbandieramento quasi fuori gioco. Poi però ci vuole un arbitro, e l'arbitro è generalmente il clinico, anzi senza generalmente. Cosa succede adesso che vi auguriamo? Che purtroppo la trasmissione è finita e noi vi auguriamo buona settimana a tutti. E a tutte. Ciao. Ciao.